Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Forse qualcuno l'avrà riconosciuta, era la colonna sonora del film La ragazza con l'orecchino di perla, tratto dall'omonimo romanzo di Tracy Chevalier. Il romanzo che ha reso famosa in tutto il mondo la scrittrice americana, che però insomma da diversi anni ormai vive a Londra. Ora Tracy Chevalier è in libreria con I frutti del vento, pubblicato in Italia da Neri Pozza con la traduzione di Massimo Ortelio. Anche in questo caso si tratta di un romanzo storico, è ambientato nell'America dell'Ottocento, è l'epoca in cui molte famiglie vanno alla ricerca di fortuna nella palude nera dell'Ohio. Chi riesce a piantare infatti un frutteto di almeno 50 alberi diventa proprietario di quell'appezzamento. Per James, uno dei protagonisti del romanzo, vuol dire strappare al fango un po' di terra per coltivare le mele che lui proprio ama, adora. Per la moglie Sadie, invece, le mele sono solo un'occasione per produrre acquavite e ubriacarsi. Sentiamo com'è nata l'idea della trama dalla viva voce di Tracy Chevalier, tradotta in presa diretta da Chiara Serafin. I was reading about apple trees. Mi stavo documentando, stavo leggendo un libro che riguardava la coltivazione dei meli nel XIX secolo in Ohio. E in effetti ho fatto questa scoperta inattesa e strabiliante, e che cioè le mele che venivano coltivate in quel territorio in realtà non erano quelle dolci da mangiare come uno si immaginerebbe, in realtà erano quelle agrodolci che venivano utilizzate per produrre il sidro e l'acquavite. Quindi queste mele, invece che venir mangiate, venivano in un certo senso bevute, anzi servivano per ubriacarsi. E infatti molte persone, molti pionieri allora, per superare le difficoltà della vita quotidiana, in pratica si ubriacavano. E in quel momento ho avuto questa visione di questa coppia, appunto lui e lei, in cui lei adora le mele agrodolci proprio perché preferisce bere, ubriacarsi, e lui invece preferisce quelle dolci da mangiare. E ho pensato, è proprio la famiglia che mi serviva, ed è proprio da questa loro lotta, da questi loro litigi che è nato il mio romanzo, per descrivere i loro diversi desideri. Comes out of this different desires. Devo dire che il rapporto fra James e Sadie si capisce subito dalle prime righe, proprio dall'incipit del romanzo, perché lei scrive: stavano di nuovo litigando per colpa delle mele. Lui voleva piantare quelle dolci, buone da mangiare, lei le asprigne per farci il sidro. Erano così abituati ai litigi che ciascuno dei due recitava la parte a memoria, senza neppure badare alle parole dell'altro. Le avevano sentite fin troppe volte. A rendere diverso l'ennesimo bisticcio non era la stanchezza di James. Lui era sempre stanco. Un uomo doveva ammazzarsi di fatica per sbarcare il lunario nella palude nera. E neppure i postumi della sbronza di Sadie erano una novità. Che tipo di rapporto c'è fra appunto marito e moglie? Lei sembra essere piuttosto rancorosa, non solo nei confronti del marito, ma anche per esempio dei figli. Perché? This is a marriage that should never have happened. In effetti questa è la storia di un matrimonio che non si sarebbe dovuto proprio mai celebrare, perché le personalità dei due coniugi sono estremamente contrastanti, e Sadie praticamente è stata trascinata controvoglia verso ovest, e poi invece che arrivare nel luogo aperto e meraviglioso che tutti sognavano, si ritrova bloccata, incastrata per così dire in questa palude. Quindi questa è la storia di una famiglia malandata, di una famiglia malconcia, e gli alberi rappresentano in un certo senso lo sfondo simbolico contro il quale si svolgono questi litigi di questa coppia, e ovviamente questi litigi continui finiscono per influire e incidere sulla vita dei figli. Il romanzo potrebbe essere quasi diviso in due parti. C'è una prima parte che è più cupa, proprio più nera, nel senso che si racconta la fatica, anche fisica, di dover coltivare questa palude nera. Si sente proprio anche il fango addosso, lo sporco del fango di cui appunto Sadie non sopporta. E invece c'è una seconda parte invece di cui poi parleremo. Come è riuscita a rendere questa sensazione anche di cupezza e di pesantezza nelle parole con cui ha descritto gli ambienti e i personaggi? I did a lot of research, a lot of reading. Io mi sono documentata veramente moltissimo per questo romanzo, ho fatto tante letture di carattere diverso e poi mi sono anche recata personalmente a visitare quel poco che è rimasto della palude nera in Ohio. Il resto l'ho affidato alla mia immaginazione, ho cercato appunto di immaginare come potesse essere la vita dei pionieri lì. Però ho anche letto tantissimi resoconti di prima mano dei pionieri che si erano trovati a vivere in queste circostanze in ospitali ed erano resoconti estremamente ricchi di dettagli, estremamente vividi, soprattutto per quel che riguardava la descrizione del fango. Per esempio, c'era un uomo che parlava di quanto i suoi pantaloni fossero infangati, tanto infangati che stavano praticamente in piedi da soli. E poi c'è la descrizione delle febbri, della malaria che colpiva gli abitanti, i coloni di queste zone, in cui venivano descritti l'episodio, ad esempio, dei denti, i denti che battevano così forte per la febbre che loro temevano che i vicini sentissero questo rumore. Quindi questi racconti pieni di dettagli così vividi che io ho trasferito pari pari nella mia pagina. I transferred and used in the book. Abbiamo detto che il personaggio femminile, Sadie, è una donna rancorosa con il marito, con i figli, li tratta male, purtroppo i figli poi per il periodo in cui vivevano muoiono purtroppo come mosche, bisogna dire, perché lei ha 10 figli, però sembra quasi che ogni anno ne debba perdere uno. Eppure non c'è mai da parte dell'autrice un giudizio negativo su questo personaggio. Come mai? Come l'ha voluta descrivere? I think that Sadie speaks for herself. I knew when I was writing her. Secondo me questo personaggio in un certo senso parla da solo, si spiega da sé e in un certo senso quello che io volevo era che sapevo per benissimo fin dall'inizio che i lettori avrebbero risposto in maniera negativa a questo personaggio e quindi mi sono detta non serve che io aggiunga oltre a questo anche il mio giudizio negativo, ho lasciato che fosse il personaggio a parlare di sé con le proprie gesta, con i propri comportamenti e mi sono limitata a mostrare quelli che sono tutti i difetti del personaggio che però suscitano anche un certo senso di empatia, di solidarietà, perché questa donna si trova a vivere in circostanze veramente difficili che la portano a sviluppare una dipendenza dall'alcol, a non avere amici e a volte presumo che il lettore si renda conto dell'isolamento triste in cui vive questa donna e io spero che tutto questo susciti anche pietà nei lettori. Per questo a me piace creare, costruire dei personaggi a tutto tondo, mostrare i difetti certo, ma anche gli aspetti che li rendono più umani e più vicini a noi. Come dicevamo prima, il libro è diviso forse un po' in due parti. Non diciamo cosa accade naturalmente, però c'è una seconda parte più speranzosa, con più luce, dove uno dei figli appunto di questa coppia, Robert, abbandona appunto questa palude nera, anche lui cercherà di fare altro nella vita e incontra una donna, Molly, una prostituta, una donna dolcissima, sembra quasi il contrario, l'esatto contrario della madre Sadie. Hai voluto metterla in contrapposizione? When I first started writing Molly, she was going to have a very small part. Quando ho iniziato a costruire questo personaggio di Molly, in effetti la mia intenzione era quello di affidarle un ruolo piuttosto ridotto all'interno del romanzo, cioè una donna in cui Robert si sarebbe imbattuto e poi avrebbe lasciato al proprio corso. Poi però quando mi sono ritrovata a descrivere le vicende di Robert in California mi sono detta no, ma devo assolutamente riportare Molly qui dentro tra le pagine del libro, proprio perché Sadie aveva esercitato un'influenza così forte, così pregnante sulla prima parte del romanzo che aveva bisogno di un personaggio di contrappunto, per così dire. E quindi sì, è vero che è una prostituta Molly, ma soprattutto è una cuoca, è soprattutto una persona magnanima, una persona estremamente generosa con gli altri. Quindi Robert e il mio romanzo avevano proprio bisogno di un personaggio come questo per controbilanciare la rabbia e l'amarezza di Sadie. E quindi Molly salva Sadie in un certo senso, la presenza di Sadie. And I think Molly saves him in the end. Il nome di Thérèse Chevalier è inevitabilmente legato al romanzo La ragazza con l'orecchino di perla. Possiamo dire anzi che molte persone hanno conosciuto proprio il pittore Vermeer attraverso il suo libro e poi naturalmente anche attraverso il film. Per lei, per la sua carriera, che cosa rappresenta quel romanzo? Sicuramente il suo più grande successo, più di 4 milioni di copie vendute e così via, però, come dire, lo considera anche in parte magari un ostacolo da dover superare ogni volta che scrive un altro libro, quasi di dover dare una prova di essere capace di scrivere un libro che abbia lo stesso successo. I don't think the book is an obstacle, because my writing now is Sicuramente non rappresenta un ostacolo, perché dopo tanti anni la mia scrittura al giorno d'oggi è qualcosa di diverso, si è sicuramente evoluta da allora. Non dimentichiamo che Una ragazza con l'orecchino di perla è stato scritto nel 1998, quindi tanti anni fa. E in un certo senso percepisco adesso la distanza da questo libro. È una distanza affettuosa, è come se questo libro fosse una sorta di figlio cresciuto, cioè quando sei genitore, i tuoi figli crescono, sono quasi adulti, tu ovviamente li ami ancora moltissimo, però non sei più al corrente della loro vita quotidiana, non conosci i dettagli, eccetera, eccetera. Va detto che io non ho mai più riletto questo romanzo dal momento della pubblicazione, ho letto solo determinate parti e quindi sento una sorta di distacco nei suoi confronti, ma anche se mi rendo conto che i lettori spesso si sono avvicinati a me grazie a questo romanzo. Ogni volta che mi accingo a scrivere un nuovo romanzo cerco come sempre di fare del mio meglio e cerco di non farmi influenzare da questo libro, che comunque non vedo più come un ostacolo, bensì come un trampolino di lancio che ha permesso alla mia carriera di scrittrice di decollare. Girl, the Pearl Earring, the success of it be an obstacle, but simply something that has allowed me to make a career in writing. Perché le piace ambientare le storie di fantasia nel passato? Il caso della ragazza dell'orecchino di perla, ma anche in questo caso si fa riferimento, insomma, all'epopea di James Appelsald, insomma fatti realmente accaduti negli Stati Uniti all'epoca, nel 1800. I think I became more interested in the past the older I got. In effetti, più invecchio, per così dire, più sviluppo un interesse più forte nei confronti del passato. Ritengo che sia uno sviluppo, un'evoluzione naturale nella persona, perché i primi 30 anni della propria vita sono dedicati a capire che cosa succede proprio a te stesso, nel presente, nel mondo in cui ti trovi a vivere. Poi, una volta passata, diciamo così, la soglia dei 30 anni, inizi a dover cercare il tuo posto in relazione al mondo intero e quindi allarghi i tuoi orizzonti, allarghi il tuo sguardo che arriva ad abbracciare anche il passato. Sento che sono diventata più una persona tridimensionale rispetto a prima, che ero monodimensionale, concentrata solo su me stessa. Voglio ampliare i miei orizzonti e questo significa che mi devo vedere in rapporto con il mondo e quindi anche con il passato. World, and that includes the past. You know, sometimes I'm just so sick of myself. Non so se sia mai successo anche a voi, però a me a volte succede di essere in un certo senso stufa di me stessa. Cioè io praticamente mi guardo dentro nella mia testa e dico, cavoli, ma mi vengo veramente a noia, sono stanca. E quindi come posso fare per liberarmi di me stessa? Ovviamente scappare da me stessa significa rifugiarmi magari nel passato. That boredom from that ennui. A me a volte viene voglia di andare in vacanza da me stessa, non so se sia la stessa sensazione. Yes, completely. Sì, esatto, proprio la stessa sensazione, ecco perché leggiamo romanzi o guardiamo i film, proprio per uscire da noi stessi. Watch a movie just to get out of ourselves. Questa che avete ascoltato era Tracy Chevalier, ora in libreria con I frutti del vento, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Il cacciatore di libri. Che sentite è Sweet Disposition dei Temper Trap. È una canzone che va ascoltata mentre si legge la pagina 29 del libro che vi presentiamo oggi. Non è uno scherzo, ve lo giuro. È quello che la stessa autrice scrive poi alla fine del libro nei ringraziamenti. Dice, beh, se volete provare un'emozione di quelle belle, forti, coinvolgenti, provate ad ascoltare questa canzone mentre leggete pagina 29. L'autrice è Federica Bosco. Il libro è Tutto quello che siamo, pubblicato da Mondadori. Federica ormai è un'amica di Radio 24, nel senso che ci siamo sentite tante volte. Vero. Per i suoi romanzi. Prima era stata definita la regina della cicletta. No! Per carità di Dio, abbiamo sempre detto no. Fa una letteratura ironica, divertente, dove ci sono anche i sentimenti, anche dove si parla anche di cose serie. Ricordo un romanzo dove parlavi anche di una donna che comunque faceva psicoterapia, insomma l'analisi. Erano tutte cose abbastanza, però tu hai questo tono, questa capacità di renderle anche divertenti, anche ironiche. Questo è il tuo 15° libro, è corretto? Sì. abbiamo fatto bene i conti. Benissimo i conti, quindicesimo effettivamente, che vuol dire che io invecchio, cioè vuol dire solo questo in fondo. Vuol dire che insomma la tua carriera va avanti e va avanti alla grande, insomma. Sì. In questo romanzo Tutto quello che siamo, la protagonista è un po' più giovane in genere delle altre tue protagoniste, soprattutto dei primi romanzi, perché ha 19 anni, si chiama Marina e ha diciamo vive una situazione familiare molto molto difficile. La madre è morta, col padre non ha un bellissimo rapporto. Perché hai scelto questo contesto familiare per raccontarci la tua protagonista? Allora, mi interessava intanto creare un personaggio sì più giovane questa volta, però come poi tutte le mie protagoniste femminili, è come fosse il background di quello che poi succede dopo. Sai, quando io analizzo le noi, no? 35-45 anni, che ormai è tutta una tutta la stessa età praticamente. Che bello! No? Che arrivi a 35-40 anni, sei sempre lì, dici non riesco a trovare la persona, ho quelle difficoltà. Allora, da dove vengono queste difficoltà? E ho cominciato a analizzare la parte prima. Marina ha 19 anni, questo grande sogno di entrare all'Accademia di Belle Arti, poi infatti il libro è tutto ambientato a Firenze. Ed è veramente capace di disegnare, però è quella cosa che dice io faccio per conto mio, appunto ascoltando tipo Sweet Disposition di Temper Trap, e disegna come fosse un diario, per cui lei mette dentro tutta la sua pancia, tutti i suoi dolori, ovviamente la mamma che muore di un tumore molto rapidamente, questo padre anaffettivo, un po' la storia di Cenerentola, si risposa con un'altra abbastanza in fretta, la classica rivista, no? Che sta lì, esatto, anche lei, che sta lì a contare le calorie più che dare un però abbraccio, però c'è un fratello finalmente, questo fratello, per fortuna piccolo, meraviglioso, più piccolo di lei, che è la sua luce, la sua gioia, e lei vorrebbe tentare di proteggerlo dal male, perché già ha conosciuto il peggio, il bambino che perde la mamma, non c'è dolore peggiore. Lei infatti si sacrifica molto, molto senso della responsabilità, cioè vorrebbe appunto frequentare l'Accademia delle Belle Arti, ma non lo fa, inizia a lavorare, lavora in un bar, perché ha un senso della responsabilità familiare, soprattutto nei confronti del fratellino. C'è una scena molto bella di quando suo fratello la sveglia la mattina, no? Dice, lui sta lì, Filippo, mi fissa per un sacco di tempo, io non me ne accorgo neanche, poi all'improvviso apro gli occhi e vedo la sua faccia, è una scena molto molto tenera. Lei cerca di dargli, di mantenere vivo il ricordo della mamma, perché lei ovviamente l'ha vissuta di più, ma molte cose è costretta a inventarsele, perché in realtà questa mamma poi era una mamma estremamente succube da questo padre, padrone, cattivo, anche violento, aggressivo, e quindi lei si inventa i buchi nella storia, racconta della sua nascita come un momento meraviglioso, palloncini, torte, in realtà non era così, anzi era sola, no? E allora cerca, lei dice, per questo non posso andare a fare la vita che voglio fare, altrimenti non posso stare qui, non posso stare qui a casa, mi cacciano, nessuno mi mantiene, per cui lavora nel bar di fronte all'Accademia di Belle Arti. Vabbè, ma lì proprio crudeltà, cioè vedi la vita che potresti avere a portata di mano, perché di fronte, ma non la puoi avere. Lei non vede solo la vita che potrebbe avere, perché vede anche un ragazzo, un belloccio sì, che si chiama Cristo, ma sì, perché è brasiliano, giusto? Brasiliano. Ed è uno, vabbè, molto alternativo, bello come il che non suo. Se la fila per niente. Ovviamente va a fare colazione la mattina nel bar e non se la fila per niente. Lei gli fa il cappuccino. Sfigata anche in questo. Sì. Per cui ho cercato di mettere tutte le difficoltà possibili in modo che chiunque, a me per prima, potesse rivedersi in questa... sai quando proprio, perché uno pensa, ah, tizio ce l'ha fatta perché era fortunato, perché ha i genitori, c'è il padre regista, la mamma stilista, no? Uno dice, è facile. Certo. In realtà poi le storie di maggior successo sono proprio quelle da dove uno parte dal nulla e che ha la famiglia contro, oppure manco una famiglia, non c'ha una lira, non c'è niente. Anche questo Cristo, che si fa chiamare Cristo come la coppia degli artisti bulgari, perché fa fico, ed è un rasta, però somiglia a Marlon Texel, che è un modello che mi era non stato segnato, ma neanch'io, meno male, perché insomma c'ha 19 anni, per cui, vabbè, allora non è nella giovane nostra portata, no, via, okay, via. Mi era stato fatto notare, ho detto mamma, proprio una bellezza, proprio piacere, bello, però, proprio bello come il sole, per cui è un po' lui, però rasta, per cui è alternativo, è la libertà, questo non, cammina, sembra sempre che cammini su coi piedi nella sabbia a Fortaleza, no, sempre lento, lei e lo Marina guarda, lo guarda naturalmente, c'è anche una parte in cui lei dice Cristo mi piaceva ancora tanto, ma mi sentivo in pericolo con lui. Non ero una tipa da una botta e via, non ero come Ginevra, che giocava con gli uomini e si divertiva. Io non avevo questa disinvoltura. Per me il cuore era sempre inestricabilmente legato alla pelle e all'anima, e mai alla mente. Insomma, Marina è una ragazza che si sente anche molto diversa dalle altre. Sì, lei ha questi due amici del cuore, uno è Dario e l'altra è Ginevra, tutti e due un po' miracolati dalla famiglia, perché insomma ci tenevo proprio a sottolineare anche questo fatto di quale sia la responsabilità di un genitore nei confronti di un figlio, quantomeno nella protezione, nell'amore, anche se non sei in grado di dargli delle soluzioni, perché nessuno di noi ce l'ha, nessuno di noi ne ha imparato, tantomeno con un libretto delle istruzioni, però quanto è importante esserci quando un figlio cade, no? Quando è in quei bui, in quei neri da cui siamo poi passati tutti, per cui proteggere, dire guarda io ci sono, non ti preoccupare, che non vuol dire ti spiano la strada, ma io sarò quel tuo faro nel buio. Per cui gli amici suoi, che hanno più o meno la stessa età, 20-22 sono anni, sono protetti, diciamo. Protettissimi, anche troppo. Per cui uno, Dario, c'ha la mamma che una di queste donne molto volitive, molto forti, una paratese, per cui sai, che ha ritirato su l'azienda del padre, allora l'ha messo in un negozio a lavorare e lui non gliene frega niente, ma non saprebbe a cosa altro fare. Ogni tanto c'ha un treno che parte, io voglio fare il produttore discografico oppure perché indovino chi vince X Factor, oppure io voglio fare, non so, i documentari senza saperne nulla. Quindi a questi treni che sì, partono, certo, e partono. Parto. Lei invece, la Ginevra, le idee molto molto molto chiare, genitori molto liberi e libertini, liberati, per cui c'ha la casa che gli hanno comprato, un centro. Sono molto diversi, insomma, da Marina, eppure sì, sono amici. C'è l'incipit di questo romanzo che devo dire è bello forte, perché parla in prima persona, no? La protagonista ha 19 anni e dice: chiunque vi dica che avere 19 anni sia una cosa fantastica è un imbecille. E lo dice perché non si ricorda com'era avere quell'età, non si ricorda come ci si sente essere costantemente arrabbiati, confusi e diversi, sbagliati, sfigati, soli e sempre con qualcosa in meno rispetto agli altri. Nei ringraziamenti, diciamo, nel finale, io devo dire, nonostante ti conosca da tanti anni come scrittrice, come autrice, ho scoperto qualcosa di te che non sapevo. Ecco, qui al Cacciatore di Libri non facciamo mai la domanda se il libro è autobiografico, non ce ne frega niente, però tu dici che hai avuto un'infanzia e un'adolescenza soprattutto difficile, nel senso che anche tu ti sentivi sbagliata. Questa cosa mi ha stupita molto, perché vedendoti così, donna di successo, scrittrice, bella e tutto il resto, invece questo libro è figlio anche della tua adolescenza. Sì, grazie per tutti i complimenti, tornerò molto più spesso solo per l'autostima, sto qui fuori, tu passi, mi dici queste tre cose e poi vado via. No, diciamo che sì, io ho avuto un'adolescenza, un'infanzia, un'adolescenza non piacevoli. Poi vabbè, non è che la storia di Marina è la mia, ma no, io non so disegnare, per esempio, ecco. Però conosco esattamente queste sensazioni qui, cioè io ho sempre avuto la sensazione di di non avere un posto, di non sapere cosa fare, dove andare, chi essere, per cui è stata una sensazione così precisa e per così tanto tempo che mi sono portata dentro, fino a grande, che avevo proprio bisogno di dargli un tributo a questo, cioè di dargli anche una collocazione forse. Io non so se adesso ho risolto, qualche cosa l'ho risolta, ma semplicemente perché il tempo passa, perché smetti di farti determinate domande, perché vedi che poi gli altri... Perché non hai più 19 anni. Non c'hai più 19 anni, ahimè. E poi vedi che gli altri, insomma, hanno poi passato le stesse cose, ma magari in altro modo, no? Perché tu vedi, infatti nel libro spesso si sente, no, questa voce paterna, guarda gli altri, loro sono meglio di te, fai come fanno loro, come? No? Questa grande domanda che io, come? Erano tutti meglio, è vero, anche io da bambina ero tutto un guarda gli altri, per cui poi ho capito che poi gli altri, appunto, sì, magari sembravano tanto tanto più risolti, però poi hanno fatto altre scelte, altri sbagli. Quindi perdonare, perdonarsi, però ripeto, ci vuole il tempo, ci vuole anche un po' di analisi, autoanalisi, letture certe volte. Infatti se non puoi trovare quel faro di cui ti dicevo, comunque quell'aiuto in famiglia, niente ti impedisce di provare a trovare persone alternative che possano che possano darti questa sicurezza. Sì. Infatti, ecco, c'è una cosa che faccio sempre nei libri, oltre a leggere le frasi in esergo, sono i ringraziamenti. È una delle cose che mi piace di più, perché secondo me danno una luce speciale a tutto il libro che si è letto. E allora tu parli del fatto che si sperimenta solitudine, confusione, paura, diversità, smarrimento. E allora da questo io ho capito che in realtà dietro questo libro c'è molto più altro della storia di Marina. E secondo me questo riesce a passare al lettore, che capisce che non è solo una storia raccontata, ma è una storia in cui molti di noi possono immedesimarsi. Sì, io spero, cioè questo era l'intento mio. Certe cose non te le puoi inventare, secondo me, no? È un po' come fare gli attori, ti devi immedesimare in tutti i tuoi personaggi anziché in uno solo, però quello che hai provato lo spieghi meglio. Lo spieghi meglio e si sente in questo sì. romanzo. Grazie allora Federica Grazie Bosco a che comunque con sempre una certa leggerezza riesce a raccontarci i dolori dell'anima e le difficoltà in questo caso di una ragazza di 19 anni che è particolarmente sfortunata. Tutto quello che siamo, pubblicato da Mondadori, Federica Bosco, grazie. Grazie a te, un abbraccio grande. E prima di chiudere mi piace segnalare un'iniziativa che ci sarà il prossimo fine settimana a Torino al Circolo dei Lettori, che è una realtà veramente molto molto vivace. Sono fortunati quelli che abitano a Torino, perché in occasione del San Valentino, insomma, si parlerà di amore. In nome dell'amore, 3 giorni e una notte di interventi d'autore sull'amore. Amore non in modo banale, perché se vi dico un po' i nomi capirete che cosa intendo dire. Ci sarà l'autrice Michela Murgia che parlerà di amare come atto di immaginazione. Poi ci sarà il poeta Guido Catalano, d'amore si muore ma io no. Poi ci sarà anche il nostro Armando Massarenti, per esempio, che parlerà di Otello e del dramma della cecità. L'amore anche secondo Snoopy? I sogni son desideri con Marco Missiroli, insomma l'autore che è stato autore di uno dei successi del 2015, Atti osceni in luogo privato, racconta gli amori disperati che Bernard Malmoud ritrae con humor e semplicità Il barile magico. Poi c'è Francesco Piccolo, lo sapete, sceneggiatore, scrittore, anche molto ironico. E tutta questa iniziativa è stata organizzata da Antonio Pascale, che è un altro scrittore, devo dire, che utilizza spesso l'ironia nei suoi romanzi. Ah, dimenticavo, c'è anche Valeria Parrella. Quindi l'appuntamento è da venerdì 12 a domenica 14 febbraio al Circolo dei Lettori di Torino. Si parla d'amore in modo bello, in modo profondo. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che come sempre trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e potete essere sempre aggiornati seguendomi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.